Sono le 21 e 4 minuti. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qui, siamo in diretta qui da Blu Radio Veneto con Agostino Spallaura a tenervi compagnia dalle 21 circa, 21 e 4 minuti fino alle 22:30 assieme da Maurizio Calzavara. Questa sera sarà una serata specialissima, almeno per quanto mi riguarda, è un'emozione grandissima avere qui dei carissimi amici, loro sono come dire, dei VIP, degli artisti enormi qui a Padova, sono conosciutissimi e stanno facendo delle cose bellissime. Ne ricordo solamente uno, il Gran Galà, che è stato fatto qualche mese fa, dove loro erano veramente straordinari. Buonasera Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, una serata importante perché presentiamo delle cose che i padovani devono sapere, Agostino. Certo, assolutamente. È per quello che li abbiamo voluti qui ed è per quello che siamo felici di averli qui. Ve li voglio presentare così come stanno. Allora, il direttore dell'orchestra della Silver Symphony Orchestra, giusto? Correggissimo, buonasera. Ciao Fabrizio. Ciao. Castania. Sì, sì, giusto, corretto. Giusto. Tutto corretto. Tutto corretto. Poi abbiamo l'organizzatrice, quella che fa un po' tutto, quella che fa di tutto e di più, e lei è sempre indaffarata a fare 3.000 cose nella sua vita. E abbiamo la Ursula. Ciao Ursula. Ciao a tutti, buonasera a tutti quanti. E poi ogni band che si rispetti c'ha una mascotte. È una cara amica, ci sentiamo ogni tanto, si chiama Benedetta. Ciao Benedetta, ciao. Benvenuta. Ciao. Ok, il progetto. Stasera cosa siamo venuti a fare? Una cosa molto importante, secondo me, spiegare un progetto. Un progetto nato da te. Da me Fabrizio. Da te Fabrizio. Okay. Com'è nata lo sviluppo? Perché i Queen? Assolutamente i Queen. Allora, intanto è nato perché io nel mio campo professionale ho sempre sposato la musica classica con la musica cosiddetta non classica. Non mi piace usare il termine colto perché tutta la musica ha comunque una sua dignità di esistere. E quindi questo mix tra classico, pop, rock mi ha sempre affascinato e quindi ho ritenuto potesse essere un bel progetto creare questo ibrido che peraltro comunque esiste già nel mondo, forse un po' meno noto qua da noi. Esattamente, io ricordo tempo fa la London Symphony Orchestra che ha ripreso i Queen, che ha ripreso i Pink Floyd, che ha ripreso i Beatles, prima i Beatles e poi tutto il resto. Certo, ma sì, ma anche la Royal Philharmonic, anche altre orchestre americane, ma in Europa non è così inusuale. Da noi forse c'è un po' di novità. E allora, ma le novità sono difficili, ma poi sono belle da sviluppare. Sono difficili da portare avanti, ma belle da sviluppare. Il rischio è sempre la risposta del pubblico, perché non è detto che trasportare un qualcosa che funziona bene a Londra possa funzionare anche da noi. Anche da noi. Esattamente. La difficoltà del progetto, Fabrizio, come è nata questa difficoltà? Come hai superato le difficoltà di un progetto con questa orchestra, chiaramente? Beh, allora, la domanda è proprio giusta, perché il problema non è tanto realizzare in versione sinfonica e quindi che non nascono come una cover, come può essere per un'altra band fondamentalmente. Quindi questo progetto rock sinfonico aveva la necessità di avere degli esecutori che fossero in grado di adattarsi a un modo di suonare, a un modo di intendere la musica che non è appunto legata alla performance classica. Quindi l'orchestra inevitabilmente per mia scelta doveva essere sinfonica, quindi provenire da quel tipo di ambiente. Sono tutti diplomati di conservatorio, quindi hanno quella formazione lì, però appassionati quanto me e capaci di realizzare questo ibrido tra classico e sinfonico, cioè tra classico e rock, sinfonico rock. Questo grido "We will rock you" di Freddie, quindi i Queen, già dà un senso alle cose. Assolutamente, infatti è il pezzo con cui iniziamo i concerti. In realtà iniziamo il concerto con l'inno britannico, sì, quello perfetto. Con cui loro chiudevano. Esatto. Dove loro chiudevano noi iniziamo, ma senza presunzione, è più che altro per creare una sorta di filo conduttore. We Will Rock You è fondamentalmente il primo brano, quello che scalda anche il pubblico. Esattamente. E l'esperimento è stato fatto poi lì al Pollini per la prima volta, alla prima sera, e chiaramente sì, diciamo che immaginavamo che il pubblico rispondesse bene. Anche con Ursula abbiamo detto beh dai, funzionerà questa cosa, però finché non li abbiamo sentiti cantare così forte che non sentivo l'orchestra, quindi dai che lo facciamo un pezzettino. Vai. Thank you. Quindi potete immaginare essere lì dal vivo a sentire questa pomposità, si può dire così, maestro? Sì, sì, sì, sì, sì. Alla Pomp and Circumstance di Elgar, per dire. Sì. Vedi. È quel British lì, sì. Noi comunque... Io ho la pelle d'oca solamente a sentire, l'avrò sentito 100 volte questo disco, immagino. L'abbiamo fatto, rifatto, come ho sentito, ho già immaginato il pubblico, i miei ricordi, quindi già pelle d'oca. Noi come radio, come Blu Radio Veneto abbiamo anche voluto allargarci questa sera, abbiamo anche un soprano. Stefania? Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Ciao Stefi. Ciao, ciao, ciao Stefania. Ciao, ciao, ciao. Benvenuta anche a te. Grazie, grazie. Ci dovevi, no. ci manchi. Tanto. Infatti, anche voi. Anche noi. Stefania, lo dico io, Stefania Miotto è una soprano di Padova, famosissima, perché lei canta in una maniera splendida, ha fatto tante belle cose, quella che, ecco, poi ci ascolteremo più tardi. Sono una... già arrossita, grazie. Stefania, sai che sai che ti voglio bene, io ho un debole per te, no? Sì. Nel senso buono, un affetto grandissimo, perché sei una carissima amica. Ci tenevo che fossi qui, ma magari lo dico già adesso, ti faccio già un invito formale, ti aspetto una sera qui con Maurizio, ci faremo un'intervista, faremo un po' di musica tua. Ma molto volentieri. Assolutamente sì. Diciamo anche perché non sei voluta venire? Sì. Non dare la colpa a nessuno, però. Senza colpe. Allora, visto che prossimamente ho degli impegni, insomma, abbastanza importanti. Dillo, dillo che c'è, è un onore tuo, è un onore di Padova sapere dove vai domenica. Niente, adesso sarò prossimamente all'Opera di Nizza con i Carmina Burana. E quindi stasera, siccome da voi circolano dei bacilli strani, molto strani, sono malatissima, ecco, Stefania, se potete sentire Ursula è un po' ballata, ecco, allora io non per fare, glielo ho detto oggi, non per fare la cantante di quelle tutte pignole, però ragazzi, non ho voluto rischiare, insomma, ecco, quindi prometto in questo momento che prossimamente, ci mettiamo d'accordo, verrò una sera e starò lì con voi assolutamente. Certo, facciamo qualcosa di live insieme, insomma. Sì, in molto acustico. Volentieri. Il rock unisce tutti, Stefania. Tu hai citato i Carmina Burana, il maestro sicuramente lo saprà. Ray Manzarek dei Doors ha fatto una cosa meravigliosa sui Carmina Burana, quindi una cosa... Il rock unisce tutti. Perché sulla presentazione c'è scritto Silver Symphony Orchestra and the Rock Band. Quello è importante, è fondamentale. Cosa dici, Fabrizio? Io dico di sì, cioè, ovviamente l'ho pensato io. È appunto. No, io penso che fondamentalmente sia la musica è una unica, è un unico linguaggio, quindi che sia classica, rock, jazz o quel che sia, insomma, unisce tutti e penso che ci dovrebbero essere più progetti di questo genere, perché abbiamo visto che anche nel pubblico, cioè il nostro pubblico, veramente spaziavano le età in una maniera incredibile, perché c'erano sia persone, insomma, di una certa età, sia ragazzi, e tutti uniti nella stessa direzione. Quindi penso che questo sia un progetto. Certo, è stato difficile, eccetera, eccetera, Fabrizio e Ursula ben lo sanno, però i risultati, insomma, si sono visti e quindi le soddisfazioni sono arrivate anche per noi. Certo, è un progetto, come diceva giustamente Fabrizio, difficile da fare entrare nella mente degli italiani, soprattutto degli italiani, perché non è semplice, non è facile. Ursula, dal punto di vista organizzativo, che difficoltà ci sono state a fare una cosa simile? Ma più la difficoltà iniziale, all'inizio, proprio per il motivo per cui diceva Fabrizio, lo facciamo, andiamo, ma la gente? Cioè, c'è un punto di domanda, ma poi... Che risposta dopo, ci sarà? Ma dopo aver visto la risposta di Padova, parlo di Padova, che avremmo fatto 3 serate senza nessun dubbio, gente che ci chiedeva i biglietti, ma poi l'entusiasmo. Poi andiamo in piazza a Varallo, 6.000 persone che cantavano con noi, una confusione pazzesca, lì è vero Steffi? L'apoteosi, veramente lì è stato un brivido incredibile. Cioè tutto veramente un concerto pazzesco. Gente, sì. Si vedeva dal bambino, al papà, alla mamma, sì, che cantavano tutte, sono canzoni molto note, quindi piacciono, fatte bene, però piacciono, fatte in questa maniera strana. Io posso dire che mio figlio non voleva venire, 19 anni, ma no, ma è qui, ma li conosco, ma no, ma vieni a sentire l'orchestra, ma è qui con l'orchestra, senti, ho detto vieni, obbligo di mamma. E dopo ho detto, sai mamma, quando è partita l'orchestra avevo la pelle d'oca, non sono più abituati a sentire dal vivo questi ragazzi. Esatto. E quindi far capire che l'orchestra non è solamente l'opera un po' distaccata, è qualcosa che arriva dentro, per me è stata la soddisfazione più grande di questi progetti. Sì, ma la commistione tra rock e sinfonico, questo è l'importante, il progetto nasce da quello, quello sviluppa le coscienze, allarga gli orizzonti secondo me. Non è semplice, però portare avanti un progetto simile e quanti, secondo me dà molte soddisfazioni. Certo, ne abbiamo provato tantissime, adesso. Sì, poi sì, sì. Ci sono molte altre soddisfazioni a Vicenza, fra poco saranno soddisfazioni decisamente grandi. Maurizio, scusami, dimmi, io voglio esagerare questa dimmi, sera. Dai, vai. Siccome abbiamo un soprano, ma questo soprano di solito canta assieme a un personaggio che in Italia è ultra famoso. Io cito sempre il solito, Vittorio, perdonami, ma insomma tu sei il frollo del Notre Dame de Paris. Abbiamo in linea Vittorio Matteucci. Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Come va? Tutto bene? Bene, bene, grazie, grazie Vittorio. Dove ciao, sei? Ciao Vittorio! Io sono a Roma in questo momento, sono a Roma, sono qua per le questioni legate alla mia ultima fatica, che sono i Promessi Sposi di Michele Guardì e Pippo Flora. Probabilmente daremo vita a questo meraviglioso backstage, insomma, di 12 puntate che racconta la genesi di un'opera. Ma qui siamo per parlare dei Queen, sì, e della Silver Symphony Orchestra, certo. Ci manchi, e di Fabrizio Vittorio Castania e di, ciao, della Vittorio, mia carissima Stefania Miotto. Vitt, ciao. Niente, ho sentito che stavate parlando, io sì, sono abbastanza fiducioso, però, perché a forza di proporre cose di grande spessore, di grande qualità, credo che prima o poi la gente debba capire che è questo che fa la differenza, e lo capirà, e lo capisce in maniera del tutto naturale, cioè non c'è bisogno di costringerli. La prima volta avrai 100 spettatori, la seconda 200, la terza 2000 e la quarta 20.000, e questo è quello che ci auguriamo tutti, insomma. Ma sicuramente uno spettacolo così a Vicenza, in un luogo così importante, così in un sacrario della musica, è fondamentale, direi. Decisamente importante. Un sacrario della musica, è detto giusto, Vittorio. Sì, diamo uno scossone. Diamo uno scossone a questo sacrario della musica, perché non sono molto fiduciosi, ma sono molto titubanti, chiusi, vicentini. Ma la musica, ma cos'è? Ma i Queen con l'orchestra, ma forse non riempirete mica. Ma come non riempiremo mica? Ma stiamo scherzando, abbiamo tutta la gente che ci chiede biglietti. È talmente bella come cosa. Loro sono molto resti, forse abituati a qualcosa di più classico. Sì, non è un sacrilegio, assolutamente. Non è un sacrilegio, è una cosa troppo bella da sentire. Abbiamo troppe persone entusiaste di questo. Poi, Ursula, se c'è aggiunto... saluto anche te, perché non ciao, ti ho Vit, salutato. Ma voglio dire, voglio dire che hai perfettamente ragione, però dopo una primissima, credo, impressione di insomma, un po' di titubanza, un po' di diffidenza, io credo che anche il conservatore più acerrimo prima o poi si dovrà, certo, spiegare alla musica che cambia, al fatto della commistione dei generi. Io sto sperimentandola tutti i giorni e continuamente, e mi rendo conto che questo è il futuro. È il futuro per noi che siamo sempre stati un po' conservatori dal punto di vista musicale, è arrivato un po' tardi, però ci sono altri paesi che ormai frequentano questo tipo di situazione musicale da anni e anni, e hanno sia il pubblico affezionato alla classica, per così dire, che il pubblico affezionato che al rock piuttosto che alla musica leggera. Quando il prodotto è buono, Vittorio, non ci sono distinzioni, basta, infatti, chiaramente. Infatti, sì, ma poi sentirete, sentire Vittorio e Stefania che si intrecciano, questi due generi diametralmente opposti, lontanissimi, che cantano insieme, è una cosa talmente emozionante che pare quasi impossibile. È stato Freddie Mercury a creare questa cosa, non abbiamo creato niente, ma la riproduciamo alla grande, certo, con questi due artisti. Freddie Mercury ha inventato Bohemian Rhapsody, quindi assolutamente... Sì. Assieme a Brian May, a tutto il resto della band, però l'input è partito da lui, cioè l'immagine dei Queen era lui, certo. Gli altri hanno detto bravissimo, era lui. Quindi, infatti noi dobbiamo dire che non vogliamo in nessun modo riproporre lui, cioè lui è lui, Basta. Freddie Mercury. Noi siamo degli interpreti che con grande umiltà e insomma, come si può dire, ed affetto proprio, ci poniamo di fronte ad una tale biblioteca di musica che hanno fatto i Queen, che ricordo, i Queen con i Pink Floyd sono gli unici gruppi rock che vengono studiati anche al conservatorio, perlomeno ai conservatori più illuminati, proprio perché hanno fatto qualche cosa di eccezionale. Quindi noi non vogliamo assolutamente sostituirci né proporre tributi. Il tributo è proprio quel tributo di chi conosce il valore musicale di ciò che va a proporre, lo ripropone con grande serietà e anche in maniera del tutto filologica, mettendoci però della propria arte, perché qui tiro in ballo il grande Fabrizio Castania, che ci ha messo tanto della propria arte dentro a questo spettacolo. Ti ringrazio, Vittorio. Comunque sai che è una collaborazione il tutto, perché ovviamente c'è la collaborazione tua, di Stefano e di tutti quanti. Comunque grazie tante. Io posso dire una cosa: io ho conosciuto sia Vittorio che Stefania il primo dell'anno, di tanti anni fa, e loro cantavano una canzone che tra l'altro è quella che poi ascolteremo anche, e io ero dall'altra parte della barricata, Vittorio, anche Stefania, cioè ascoltavo, vi ascoltavo. Io mi ricordo che avevi un vestito blu turchese bellissima, e dall'altra parte della barricata, cioè, la gente si commuoveva, cioè veramente avevano le lacrime, cioè vedere già la prima esibizione. Poi a furor di popolo, se non so se vi ricordate, vi hanno chiesto il bis. Sì. E avete spopolato quel giorno lì. Ma io penso, come diceva Vittorio, noi riproponiamo il tutto con umiltà, però c'è tanta passione alla base e tanto amore per la musica. E questo amore che abbiamo per la musica e che ci accomuna in particolare, accomuna me e Vittorio in particolare, secondo me sul palco viene fuori. È quello che proviamo noi, cioè questa sensazione grande, per fortuna, e così ci confermate, la percepisce anche il pubblico. Sì. Quindi è proprio, diventa uno scambio di energie tra noi e il pubblico, ed è veramente lì una cosa magica, tant'è che, cioè, sinceramente l'emozione c'è anche per noi, insomma. Ve l'aspettavate un successo così grande quel giorno? Io no, sinceramente. Ma io devo dire che ho sempre avuto l'impressione che quando tu ci metti il cuore e l'anima, la gente ti corrisponde in maniera del tutto automatica, senza nessuna fatica, nessuno sforzo. E questo è, siccome io conosco Stefania, conosco me, perché mi conosco, e so che quando faccio una cosa, come dice sempre un mio caro amico, mi dice sempre, e mi ha sempre fatto un gran complimento dicendomi questo: tu canti ogni volta come se fosse l'ultima, mi dice. Ecco, io canto ogni volta come se fosse l'ultima. E questo credo che faccia anche Stefania, che ha proprio questa anima rock, nonostante la sua sì. Genesi, insomma, assolutamente classica, di cantante lirica, con tutti proprio i crediti a posto. Però questa cosa del cuore, della passionalità, è una cosa alla quale noi non possiamo rinunciare, che senza di quella non riusciamo neppure a cantare, e questa cosa ci viene immediatamente corrisposta dal pubblico, è automatico, e questa è la differenza che passa tra uno che ci mette il sangue e il sudore e uno che fa il compitino. Giusto. Hai detto una cosa giusta, il pathos ci metti, il pathos è fondamentale, secondo me, in tutto. Sì. Per me è assolutamente fondamentale, senza di quello non funziona proprio. Decisamente. Qui nella recensione che abbiamo preparato, abbiamo scritto la colorazione che Fabrizio ha dato ai diversi momenti della musica di qui. Adesso me la spieghi un momento, la colorazione, Fabrizio. Cioè, allora, nel traslare in termini orchestrali quello che è la voce di Freddie Mercury, perché giustamente, come diceva Vittorio, noi ci approcciamo a questo grande artista in due forme. Una nel riproporre brani così come li aveva concepiti lui, nel caso di Barcelona, nel caso di The Great Pretender, che di fatto era una cover anche per lui, voglio dire. Certo. Però il problema di fatto è trovare è la difficoltà nell'estendere a tutti gli altri brani la vocalità di Freddie Mercury, che era molto, molto particolare, molto tipica. Quindi lì subentra il fattore orchestra, cioè l'orchestra sviluppa fondamentalmente il ruolo di Freddie, mentre la parte dei vocalist rappresenta invece quelli che sono gli incisi, quello che sono fondamentalmente, come in We Are the Champions, loro intervengono su We Are the Champions. E questa cosa appunto è il colore dell'orchestra, che nelle varie sezioni, nelle varie, quindi dai violini agli ottoni, i legni, sviluppa fondamentalmente quelle che sono le tematiche. Poi chiaramente per un pezzo come Barcellona era inevitabile, e poi è un onore avere due voci importanti, quindi è chiaro che giustamente special guest, per niente special guest, assolutamente sì, special sì, guest. Ma a maggior ragione, voglio esatto dire, esatto. È fondamentale. Ma li hai voluti proprio tu, Fabrizio? Sì, certo. Ci siamo trovati una sera io e Ursula, e dopo due secondi abbiamo detto: gli unici che possono fare questo repertorio, perché ovviamente li conoscevamo già, ovviamente li conosceva molto, molto meglio Ursula, e abbiamo detto assolutamente Stefania e Vittorio. Certo chiaramente, certo. Avete avuto ragione, comunque. Abbiamo avuto ragione. comunque, ora facciamoglielo dire anche al pubblico della serata del 24. Sì, vedrai Vittorio. Abbi fede. A proposito di pubblico, ne approfitto per ricordare che questa è comunque pur sempre la vostra emittente preferita, cioè Blu Radio Veneto. Vi ricordo il numero per mandare i vostri messaggi, i vostri sms, se volete magari fare qualche domanda a questi personaggi che abbiamo qui questa sera, che sono straordinari. Ve lo ricordo allora: 346 23 20 0 33. Quindi lo ripeto: 346 23 20 0 33. Benissimo, siamo qui. A Vicenza. Posso mandarmi un sms anch'io? Sì. Certo. Subito anche. Stavo pensando la stessa cosa. Lo sapevo. Ecco, allora niente, noi facciamo questo grande spettacolo. Io mi aspetto tutta la popolazione in fila indiana di Vicenza che viene e che godrà di uno spettacolo veramente di livello qualitativo come raramente se ne vedono, devo dire la verità, perché stiamo parlando anche di musicisti, parlo dei musicisti che fanno parte dell'orchestra, che sono diplomati con tutti anche loro i crediti a posto, che sanno interpretare musica che non è prettamente classica, con lo spirito giusto, con il tocco giusto, sì. Il respiro giusto, è difficile. Poi c'è il coro Silver di Ursula, che è veramente... Abbiamo la Benedetta questa sera. Sì, la Benedetta è la nostra piccolina, per modo di dire, perché ha un caratterone, ed è entrata per ultima e non ci lascerà, perché è proprio, ci è piaciuta subito, perché è entrata dentro lo spirito proprio nostro. Per cantare con noi ci vuole lo spirito nostro, perché, vero Benedetta? Cioè, all'inizio io sono un po' come la fetta di Hitler, così, però da lei proprio non si è fatta nessun problema, preparatissima, le prove sempre, facciamo queste prove con i vocalist, perché sapete che i vocalist sono un po' diversi dall'orchestra, i vocalist devono avere più fusione, quindi non è che dici impariamo le parti, mettiamoci insieme, bisogna conoscere, provare, riprovare e poi fare i quinci diverte sempre tantissimo, vengono tutti volentieri. Ursula, ti faccio io una domanda: ma quanti saremo sul palco poi in definitiva? Allora, io penso che io ho calcolato 70, ecco. Perché l'incubo mio di questi concerti, non parlo dell'incubo economico, perché uno che sa cosa vuol dire organizzare una cosa del genere può anche immaginare tutto, ma l'incubo è che noi dobbiamo sempre avere un palco enorme, e quando io ho delle richieste per questo concerto e telefono al maestro Castagnia: ti va bene il palco 8x5? Neanche per sogno. Ti va bene il palco 8x10? Neanche per sogno. Io non lo so, cioè, ogni volta mi vanno giù, ma dai, almeno ci stringiamo. Non ci stiamo, siamo tutti a dieta, anche perché non c'è da dimenticare che Stefania deve entrare con il suo vestitino. Ecco, sì, lei è sempre molto umile nei suoi vestiti, così che 4 metri per 4 solo per il vestito di Stefania. Ma ci mettiamo d'accordo io e Vittorio questo giro, ci vestiamo, Vittorio, ci vestiamo noi. Fili fili ci vestiamo. Sentite, proprio un gettatino proprio con una riga sola proprio. Sentite, io vorrei fare una piccola pausa, se mi consentite. Io direi di far ascoltare quella canzone che mi fa impazzire. Ma sì, dai, abbiamo invogliato troppo le persone, insomma, troppo. Anche perché poi la gente dice: ma voglio sentire sia la Stefania che Vittorio, ecco, cantare questa canzone. Sì, ricordiamoci sempre che quello che abbiamo noi è un live senza ritocchi, preso così proprio nature, veramente, quindi non è una cosa fatta in studio, bella, preparata, è il nostro live, che è un po' un demo, quindi non aspettatevi una cosa perfettissima, però c'è tanto cuore. Allora, ci ascoltiamo Stefania Miotto e Vittorio Matteucci, che cantano con la musica della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castagnia, questo pezzo che è straordinario di Freddie Mercury e Montserrat Caballé, si chiama Barcellona. This perfect dream, un sueño me envolvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I want all the world to see. Un istinto me guiaba. A miracle sensation, my guide and inspiration. Now I dream with no. The wind is a gentle breeze. Such a willing, if God is willing, friends until the Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Rieccoci ancora qui, quindi con questi big, questi personaggi così straordinari presenti questa sera a Blu Radio Veneto. Ci siete, Vittorio? Ci siamo tutti. Ci siamo! Allora, prima di continuare vi devo mandare un messaggio da parte di Simona da Genova, che è in ascolto, vi porge il suo caloroso saluto. Oh, cara. E vi dice che vi ama talmente tanto che insomma vi aspetta anche lì da quelle parti se avete voglia di fare una tournée. Magari che ci trovi un teatro largo 10 metri, lungo 20 metri. Sarò felice. Allora, un bacione a Stefania e a Vittorio da parte di Simone. Ricambiamo di cuore. Grazie, grazie. Allora, abbiamo ascoltato Barcellona, che è un pezzo straordinario, cantato queste due voci incredibili. Come l'ho detto prima, lo ripeto questo discorso, chi è dall'altra parte della barricata non può non emozionarsi di fronte a questi due mostri sacri della musica padovana. E poi è un onore per noi di Padova avervi voi come cantanti e come musici. E anche la Symphony Orchestra come musicista, ovviamente, insomma, perché siete veramente, portate il nome alto di Padova in giro un po' per dove andate, insomma. Ci proviamo. Facciamo di tutto, diciamo. Ribadiamo il discorso. Proprio di tutto, eh. Beh, sì. Certamente. Le pulizie, quelle sono io. Ribadiamo il discorso, questo non è un tributo, è un progetto, una rivisitazione. Questa non è la grande verità, questa è la grande differenza. E non è un tributo, sì. E questo bisogna sottolinearlo. Ci hanno chiesto un po' di tutto, quando era ancora in fase embrionale, gli sponsor, piuttosto che il pubblico, diceva: ma è un musical? No. Ma è un cioè una cover band? No. Erano sempre no. E in realtà bisogna venirla a sentire per capire che cos'è. In realtà è la riproposizione sotto una chiave un po' insolita di quello che è il repertorio dei Queen. Così come poi abbiamo fatto anche per altri gruppi, per altri autori. Quindi non è assimilabile a qualcosa che è riconducibile appunto al termine, non so, musical, perché non ci sono figuranti in scena o cose di questo tipo. Ecco, Mano, cioè, dirigere 40 giovani musicisti, come si fa, Fabrizio? Anche di più. Anche di più, ecco. Anche di più. Quanti saranno a Vicenza? Allora, a Vicenza sono 40 gli orchestrali, più... Poi i numeri li facciamo dire anche a Benedetta. Sì, sì, no, i numeri li facciamo dire a Benedetta, che tiene conto... di tutto. Esatto. No, facciamo dire prima i numeri e poi diciamo quanto difficile è dirigere, ecco. 40 persone più. Ci sono 40 orchestrali, che sono tutti giovani, ragazzi dai 20 ai 30 anni, ovviamente il direttore dell'orchestra, la rock band, formata dal pianista, bassista, chitarrista e batterista, e poi ci siamo 10 vocalist, donne, uomini, soprani, contralti, tenori, e tutti diretti da Fabrizio, quindi Fabrizio non dirige solo l'orchestra, ma ovviamente anche la rock band e anche noi vocalist. E anche il pubblico. E anche il pubblico. Sì, è vero, confermo. Si gira a dirigere il pubblico spesso, infatti noi lo perdiamo e andiamo un po' spaesati, perché il pubblico deve essere diretto e canta, concerto, sì, vero, da cantare, non da sentire. Sì. Sì, il pubblico deve partecipare, assolutamente, è fondamentale. È una parte attiva assolutamente, il pubblico, nei nostri concerti. Esatto, cioè quello che giustamente dice Stefania è che in particolare in questo repertorio, che comunque è molto popolare in quanto notorietà, perché i Queen, magari a differenza di un repertorio come i Pink Floyd, che ha tantissimi estimatori, però è più da... come dire, da ascoltare. Sì, d'ascolto, esatto. Esatto, questo invece porta la gente a farsi proprio coinvolgere direttamente, e posso dire che conoscono sia la prima che anche la seconda strofa di buona parte delle canzoni, cioè nel senso, io ho fatto già un'esperienza, adesso esulo un attimo dal concetto Queen, con i cartoni animati. Abbiamo proposto i cartoni animati in versione sempre pop sinfonica, insomma abbiamo fatto questo omaggio all'animazione giapponese, e conoscevano ogni singola parola. Chiaro. ogni cinque, e sbagliare, ad esempio nel caso di un vocalist, sbagliare una frase, una parola, è gravissimo, è peggio che non attaccare giusti la quinta di Beethoven, è una cosa non si può. Giusto, giusto, è giustissimo. Chi non conosce Radio Gaga o Radio Gaga? Appunto, tutti, quindi è una cosa proprio... trasporta la gente. Ti correggono, cioè, sono severissimi, sono come la giuria dei programmi TV, quelli insomma che tutti conosciamo, cioè correggono gli errori se sbagliamo. Verissimo. Si può sapere qualche nome delle vocalist? Io so solo quello di Benedetta, poi so un passaggio da una violinista a corista. A cioè quale la... fine? è interscambiabile per quello che è stato. La Valeria Pozza, lei proprio, oltre ad essere bellissima, è anche brava. La saluto caramente. Una scoperta, perché sì, mi hanno detto, c'è una violinista che vuole cantare. Sì, ho detto, ma guarda che già canta nei Venice. Beh, allora è una garanzia. Certo. E dopo abbiamo sentito, ok, fai parte, basta più violino, per favore vieni con noi, canta con noi. No, ma poi abbiamo, per esempio, abbiamo la Claudia Ferronato che canta nei Calicanto, tutti hanno dei progetti, abbiamo l'Anna Tosato che insegna musica, che è quella che se non ci fosse lei per le parti, per tutto quello che è il coordinamento nostro, ci vuole sempre, no? Un tecnico, io posso dire state zitti, state buoni, ma dopo il contenuto lo fa, oltre a Fabrizio lo fa anche l'Anna, e poi adesso mi vengono in mente... Abbiamo anche Davide Basso. Ah beh, ma Davide, per Davide farei un discorso particolare, vero? Cioè, è stata Davide è un giovane emergente che è arrivato fino alle finali di X Factor, un vicentino proprio. Infatti io l'ho scritto nel giornale di Vicenza. Avete un vicentino che fa alcuni brani da solista. Ha una voce particolarissima, molto alta, molto tipo Freddie Mercury, è un animale da palcoscenico perché è completamente pazzo e quando canta è completamente pazzo, è divertentissimo, e Davide sarà diciamo il terzo solista dopo le due big star, infatti ci sono loro due e poi c'è lui, però lui con la sua allegria, col suo dinamismo veramente ha creato un personaggio a sé. Davide è stato preso alla scuola di musica di Londra, che è una gran cosa, ma gli ho detto Davide per Vicenza vieni giù, lui era felicissimo, speriamo che arrivi perché è un po' vago come tutti i musicisti, però, però speriamo che arrivi, e Davide è da sentire anche lui. Perché... Ma tu come l'hai scoperto Davide? Davide è un amico, io sono molto amica di quelli che cantano con Luca Pitteri, sono molto amica veneziana, amica di Luca Pitteri, massima fiducia in lui, e se lui mi dice quello è uno bravo, io ho la garanzia che sia bravo. Abbiamo abbastanza pitteriani da noi, perché ci sono 4-5 che cantano anche nel coro suo, sono tutti molto preparati, e Davide è uno di questi che è venuto in sordina e ha detto a Fabrizio una sera: Fabrizio, se vuoi la faccio io Somebody to Love. Fabrizio è uno che dà molta fiducia alle persone, gli ha detto va bene vai, ma la proviamo, no vai, come? Vai davanti a 6.000 persone, questo è andato un attimo di panico e poi l'ha cantata alla grande veramente, infatti quando si ha fiducia di un maestro, tra maestri hanno fiducia tra di loro. Ursula, quindi... Ursula, dimmi Vittorio. Volevo chiederti una cosa, ma tu per il 24 la voce, cioè l'influenza l'avrai? Io la so farai. Che sembro, non dico cosa sembro, un omone, ecco, ma io sono influente, Vittorio, anche se io canto piano abbiamo qua... Cioè, abbiamo nonostante l'influenza... Sei ininfluente. No. Mi vuoi dire questo? No, sono ininfluente per quanto riguarda la parte musicale, perché casomai sto zitta, ma mi sarà molto difficile perché poi ma canto le stesse parti di Benedetta. Appunto. No, poi io devo presentare, perché dopo quando parleremo anche, cioè la presentazione di un concerto è una parte molto importante del concerto, ma ne parleremo più tardi quando i nostri due artisti avranno ancora fatto sentire qualcosa delle loro voci, eccetera. Per ora parliamo di musica. Allora, Vittorio, che ci racconti? C'è una persona che ci chiede se con loro vai avanti ancora a fare altri spettacoli o se ti fermi solo a questo? No, questo è un progetto che io condivido completamente, e quindi laddove ci saranno delle date spero proprio vivamente di essere presente. Ovviamente, come sapete, come credo chiunque faccia questo mestiere un po' senza sicurezze, che è questo dello spettacolo, che ha a che fare con il mondo dello spettacolo, si sa che bisogna cercare degli incastri a volte abbastanza fantasiosi Un giorno sei ad Agrigento e il giorno dopo sei appunto a Vicenza, però lo fai anche molto volentieri perché è il tuo mestiere e te lo sei scelto, anche se io dico spesso è il mestiere che sceglie te, spesso e volentieri. Comunque, detto questo, io anzi come dico, proprio abbraccio completamente questa iniziativa, anzi spero di averne nuove. Ne abbiamo una in cantiere con Fabrizio e Ursula, della quale non si parla ancora, ma che sarà un'altra bellissima iniziativa, sempre nel nome della qualità assoluta e dell'orchestra, che per me diventa una cosa quasi irrinunciabile. Dopo anni di musica in base, perché questo è quello che purtroppo per mancanza di fondi, per difficoltà di allestimento, il musical richiede quasi come necessità, insomma, no? Già l'anno scorso, l'estate scorsa, con la Tosca siamo riusciti a fare lo spettacolo di Lucio Dalla con l'orchestra vera, e questo ci ha riempito il cuore di gioia. E però in effetti la musica è sempre in base, e quando riesci a cantare con la vibrazione dell'intera orchestra siamo proprio su un altro piano emozionale, sia per il pubblico ma soprattutto per i cantanti. È proprio un altro mondo, è come non lo so, la differenza che c'è tra la carne surgelata e una chianina di Firenze, capito? Mangiata lì proprio a Montespertoli. Quindi questo voglio dire, ecco, a San Quirico in collina, la chianina del macellaio di San Quirico contro la carne surgelata. Ecco. Vittorio, dimmi. Sei sempre un prete innamorato? No, perché non lo sono, perché ogni cosa ha il suo tempo. Certo. Era una battuta la mia, Vittorio. No, ma ci mancherebbe. Io ti rispondo anzi volentieri, perché è un personaggio al quale io devo tantissimo, e quindi non lo rinnego, ci mancherebbe, anzi. Però ha fatto il suo tempo, io nel frattempo poi ho vestito i panni di Scarpia, di Dracula, di Dante, e adesso dell'innominato, e quindi le cose sono andate avanti. Certo, se mi si dovesse ripresentare l'occasione di fare un nuovo allestimento con il cast, quello originale, io ci penserei. Ci penserei, anche se non ti nascondo che per me sarebbe un po' un problema rientrare dentro a questi panni. Sarebbe quasi una minestra riscaldata, vuoi dire questo? No, sarebbe proprio un problema, perché la mia il mio essere tedesco nell'affrontare le cose, il mio volere fare le cose come si deve, non mi permette il minimo errore. Io sono un autocritico spietato verso me stesso, e quindi vorrei proprio fare le cose come si deve, non sull'onda del successo, ma come se lo dovessi riaffrontare oggi, magari con nuovi accenti e nuove emozioni. Mi piacerebbe farlo così, se lo dovessi rifare. Certo. Ci facciamo i Queen, che forse è meglio, dai. Sicuramente adesso i Queen sono il futuro di un percorso che sto facendo, che fra l'altro tocca situazioni completamente diverse fra di loro. Sono il futuro, e mi auguro, come ho detto prima, che con l'orchestra potrò avere nuove e diverse occasioni di lavoro. Sì, con l'orchestra hai detto una cosa giusta, l'orchestra è fondamentale, ci deve essere un ritorno all'orchestra. Bene, gli spettacoli dell'orchestra costano economicamente, sono pesanti, però senza l'orchestra è un'altra cosa, le finzioni durano fino a un certo punto poi basta, secondo me. Sì, il costo, hai detto tu, cerchiamo sempre di dribblare questa parola perché è brutto, è no? Stiamo parlando di passioni, di cuore, di musica e dopo siamo i costi. I costi purtroppo sono quelli che devo gestire io e sono tanti e tutte le istituzioni... Se devono dare dei fondi li danno alla musica classica e certo. Se già fai un tributo così ti guardano, cioè sì, va bene, grazie, arrivederci, ciao, è stato un piacere, vengo a sentirvi, sapete, sì, vengo a sentirvi, arrivederci. Quindi io ho cercato dappertutto, no, dobbiamo arrangiarci da soli. Per fortuna che esistono ancora gli sponsor, sapete quelle entità al quale io sono gratissima, perché senza gli sponsor non si fanno i concerti, e quindi per fortuna esistono loro che sono appassionati dei Queen, dei Pink Floyd, e quindi dicono va bene, facciamolo. Quindi, Sentite, scusatemi, ma io per questioni proprio di lavoro adesso sono proprio costretto a lasciarvi per una questione qua, devo rientrare in sala di registrazione. Okay. Sono qua con il maestro Guardì, Michele, che vi saluterò. Voi sapete che è abbastanza una persona piuttosto rigida dal punto di vista lavorativo e non vorrei incorrere in qualche sanzione. Detto questo, però, datemi la possibilità intanto di salutare tutti coloro che sono all'ascolto, tutti i vostri affezionati ascoltatori della radio e soprattutto i miei carissimi amici nonché colleghi Stefania, Ursula, Benedetta, che saluto così, e soprattutto Fabrizio. Ciao, grazie a te, che mi hai invitato per questa cosa. Vi aspettiamo tutti. Io 24 ci sarò. Sera, mi raccomando, venite, perché avrete l'occasione di assaggiare e gustare un grandissimo spettacolo di grande musica, e questo a prescindere dai vostri gusti musicali, questo certo, è molto importante, certo. Anche da sottolineare, cioè non è che bisogna essere dei fanatici dei Queen per venire a vedere uno spettacolo di questa natura, certo. Assolutamente, certo. Bisogna essere più che fanatici, grandi amanti della musica. Vittorio, la promessa me la mantieni però, mi avevi promesso ancora tempo fa che venivi a trovarci in radio con un tuo disco. Certamente lo farò, quando sarà pronto il disco ci vedremo fra 25 anni. Hai 120 canzoni, mi hai detto. Sì, ma... ce le ho, però. Sono i tempi. Vittorio, grazie di aver partecipato. Ciao Vittorio, grazie, ci vediamo domenica. Un abbraccio. Ciao, ciao Vittorio. Ciao, grazie. Ciao. In bocca al lupo per tutto. Ciao. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo ancora qui, siamo in diretta fino alle 22:30, sei già trascorso quasi un'ora, sono le 21:52, questa è pur sempre la vostra emittente. Dicevo, Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore e assieme a Maurizio Calzavara vi sta tenendo compagnia con questi personaggi VIP, li ho chiamati io, ma sono soprattutto amici prima di tutto. E poi insomma, io volevo chiedervi una cosa: si può scendere in dettaglio delle canzoni che fate, che farete, o è una sorpresa che proprio ce la dobbiamo gustare quando verremo lì? Beh, parlo io allora. No, allora, il concerto che noi proponiamo è un concerto ormai abbastanza noto al pubblico, soprattutto al pubblico qua a Veneto, perché già l'abbiamo proposto a Punta Varallo, l'abbiamo proposto al Pollini. Ci sono delle variazioni sugli arrangiamenti, sulle orchestrazioni, i brani comunque sono bene o male quelli che abbiamo già proposto, che sono quelli poi più sinfonici, quelli che possono essere più trasmissibili dal rock al sinfonico. Al sinfonico, praticamente. Quindi We Will Rock You, Under Pressure, e poi Radio Gaga, piuttosto che vabbè, We Are The Champions, Somebody To Love, Once Live Forever, che fa sempre piangere. Posso dire una cosa a proposito di lacrime? Posso svelare un segreto o no? Cioè, dipende dal segreto. C'è ancora quel pannello bianco dove ci sono le... O no? Sì o no? No. Allora non dico niente. Ci sarà un domani, in questo momento no, ma ho capito a cosa ti riferisci. Il pianoforte. Esatto, sì sì, lo so. Ha bloccato tutti, l'emozione è stata fortissima. Fabrizio, ti posso garantire, come dicevo prima con la Stefania e con... Quando noi siamo di qua, voi suonate, vi piace quello che state facendo, ma noi che siamo di qua che ascoltiamo, è una cosa pazzesca sentire, cioè io quella sera lì con Guide Me Home è stata una cosa, io veramente i brividi erano altissimi. Sì, me l'hanno detto in molti che questo connubio tra le immagini e il pezzo, sì. Che peraltro non è uno dei pezzi più noti di Freddy, perché vabbè, insomma, solo un po' gli addetti ai lavori conoscono, e ha reso bene, insomma, questo mi fa piacere, sì. Perché è stato un po' anche nella sfida del fare i Queen in versione sinfonica, è stata una sfida nella sfida. Guarda che c'era molta gente che aveva le lacrime, eh? E quando hai finito la canzone si sono alzati in piedi a battere, sì, lo so, ti ricordi? Ho visto. È stata una bellissima idea quella. Volevo chiederti una cosa tecnica, sì. Quando hai voluto mettere in scritta Under the Pressure, ricordavi la versione di David Bowie oppure no? Allora, la versione è molto bella, quella a cui ti riferisci, però soprattutto con Somebody to Love, in particolare, ho cercato di attenermi all'originale come scelte di tempi, come scelte di stile, modo di interpretarla. Comunque, per me i Queen e altri progetti simili che abbiamo fatto nascono principalmente dal fatto che sono orchestrabili, cioè sì. Hanno comunque una liricità, nel caso adesso parliamo dei Queen, di Freddie Mercury, che aveva una visione di quello che è la musica sicuramente a 360 gradi, quindi non fossilizzata soltanto nel rendere in quel momento il suono che ne so, appunto della chitarra o della batteria o del basso, ma un'estensione mentale che andava verso un lirismo che poteva essere appunto tranquillamente orchestrabile, cosa che io ho cercato di realizzare con l'orchestra. E a parte Barcellona, che nasce volutamente così, Under Pressure è orchestrabilissima, sì. E ripeto, è stata una sfida nella sfida, in realtà non è un pezzo facile, secondo non me non è un pezzo facile, assolutamente no, ma soprattutto da un punto di vista esecutivo, perché ha questi crescendi, questi interventi, questi contrappunti che sono, sì. Io ricordo quando ero in conservatorio, c'era un po' questa voce che diceva: ah, ma la musica leggera, la musica pop, la musica rock, sì, ma sono quattro accordi, insomma. Cioè, poi ci sono andato a guardare, ce ne sono non anche è propriamente. Cinque. Propriamente così. Sì, era una mia curiosità, assolutamente, sì. Stefania, sei ancora lì? Sono sempre qui, vi sto ascoltando. Non ti arrivano i bacilli, Stefania, non preoccuparti. No. Sentite, io volevo fare un omaggio a Stefania. Io e lei abbiamo una canzone in comune, vero Stefania? Sì, è vero, vero, vero, vero. L'abbiamo definita la nostra canzone. Non c'entra niente con il tributo, questo spettacolo ai Queen, però io vorrei rendere omaggio a questa veramente splendida donna padovana, un soprano straordinario, con questa interpretazione sua di questa, come dire, suite, chiamiamolo così, un pezzo strumentale quasi, ma c'è sotto la sua voce che è così bella. Stefania, che dici, ce l'ascoltiamo? Grazie. È quella che ci ha fatto conoscere. La vuoi annunciare tu? No, fai tu, sei tu. Allora, questa è una canzone che trovate all'interno del CD di Stefania Miotto, che si chiama Respiro, la traccia numero 14, è un midley che lei fa in omaggio a Ennio Morricone e ci presenta Giù la testa. E c'era anche una se devo dire una cosa, Ago, ti interrompo. Dimmi. Questo medley l'abbiamo fatto anche diretto dal maestro Fabrizio Castania e la Silver Symphony Orchestra. Ci sono sempre, non è come sì, questo. Anche e se devo non voglio dire, devo dire, per carità, qui adesso lo sentirete così con un piano, però ho fatto con l'orchestra, come diceva prima Vittorio, ragazzi, è tutto io allargo anche il discorso. Quel pezzo lì è stato fatto nel Teatro Verdi, esatto, all'interno Bravissimo. Di un siamo spettacolo spiati. Sì, io ci sono spiati. Sempre con voi, lo sapete che ci sono sempre all'interno di uno spettacolo che loro hanno mescolato la musica classica con il pop e il rock, e hanno fatto cosa straordinaria. Io mi ricordo solamente una canzone, Music di John Miles. È stata mamma mia, ma se continui a venire, sorpresa, se continui a venire, forse. Io lo sai che sono affezionato a voi. Quello che vedrai che fra a breve. Esatto, ci saranno altre sorprese, Agostino. Molto, molto a breve. Sei un tesoro, sei un tesoro. Dai, che ascoltiamo Stefania Miotto. questo è un disco straordinario per quanto riguarda la musica mista, chiamiamola così, c'è l'operetta, c'è il rock, c'è il pop, c'è un po' di tutto, insomma. In questo disco troverete anche la versione sua di Tu sei una cosa grande di Domenico Modugno, poi canta anche Torna a Suriento, insomma, di Citincello Vuie, insomma, c'è un po' di tutto, o sbaglio, Stefania? No, è così, diciamo che è un po', racchiude un po' la mia anima, nel senso anima. Che comunque nasco come cantante classica, lirica, però come diceva anche Vittorio, la mia anima è anche rock, diciamo è un po' più moderna, tra virgolette, ecco. Certo. Adoro l'opera, l'ho sempre sentita, anche insomma, fin da piccola, quindi insomma sono cresciuta con questo. Diciamo che la vedo un po', come si può dire, una cosa statica, diciamo che non trovo con l'opera un colloquio, sempre tra virgolette, con il pubblico, quindi c'è una grandissima soddisfazione, una grandissima anche difficoltà, insomma, a interpretare un ruolo, eccetera, un lavoro incredibile dietro, perché c'è la costruzione del personaggio, oltre che dal punto di vista vocale, proprio dal punto di vista della diciamo della personalità, del personaggio, insomma, del ruolo a cui si va a interpretare. Ma a parte questo, poi io il tutto si ferma sul palcoscenico, ecco, sì. Io ho questa difficoltà che non sono riuscita a superare molto, mentre se fondo le due cose, quindi il pop e il classico, trovo questa cosa che è immediata, cioè questo ritrovo, questo dialogo con il pubblico. È anche per questo che io sono più concertista che operista, perché nei concerti magari riesco intanto a spaziare appunto nei vari generi, quindi opera, operetta, musical, canzone napoletana, eccetera, e però ho la possibilità di interagire con chi mi ascolta, e per me è una cosa fondamentale, perché come dicevo prima deve esserci questo scambio di energia che porta proprio a un accrescimento sia per me che per il pubblico, ecco. Certo. Quindi Stefania, diamo un bacio anche a Giorgia, la luce della tua vita. Giorgia, esatto, appena ascoltato la canzone ha detto: bene, con questo posso andare a dormire. Ciao Giorgia. Ecco. Stefania, quello che hai detto, Stefania, it's only rock and roll but I like it, hai detto Mick Jagger, quindi chiaro di così. Esattamente. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Facciamo una domanda a Benedetta. Che emozione hai avuto quando sei entrata nel progetto dei Queen? Ah, io sono entrata nel progetto dei Queen quando abbiamo fatto il Gran Gala al Gran Teatro ad aprile, e dopo abbiamo replicato con il tributo ai Queen a Varallo, in una grandissima manifestazione dove in altre serate c'erano ospiti veramente famosi, importanti. Sì, sì, molto importanti. Infatti c'era un grande pubblico, ci saranno state per noi 6.000 persone come minimo. E io credo che sia stata per me, poi sono giovane, cioè non sono mascotte, però comunque 20 anni, 21 anni ho. E è la prima volta che però ho la possibilità di cantare con un'orchestra, e devo dire che avere così tanta gente sul palco è un'emozione, quasi un orgasmo a sentire cantare. Lo vediamo anche noi quando, perché ovviamente tra di noi vocalist non accompagniamo non tutti i pezzi, ci sono alcuni pezzi che sono solo l'orchestra e invece noi accompagniamo altri pezzi, e quando ci guardiamo che magari è solo l'orchestra che suona, è veramente un'emozione grandissima. E ci vuole tanta passione, cioè noi vediamo anche quando facciamo le prove, siamo tutte tra virgolette professioniste, quindi è anche difficile trovare le prove, però siamo comunque un team molto affiatato, e è importante comunque riuscire a unire, a mescolare 11 voci diverse per riuscire a formare un prodotto buono anche da parte nostra vocalist, appunto di noi vocalist. Certo, l'unione è lui. Fabrizio. L'unione è il tutto, sì. Fabrizio è il tutto che è Fabrizio. È tutto, vede tutto, sente tutto. Esatto, e critico tutti. No, non è così. Però, cioè, una cosa giustamente che diceva Benedetta è che un po' alla tedesca è un Augenmusik, cioè una musica da vedere anche nell'esecuzione, perché vedere i vocalist, vedere gli strumentisti, il basso tuba, il trombone, i violini, il flauto, l'oboe, cioè è anche una forma per il pubblico di immedesimarsi con questo tipo di strumenti. Anche il, per esempio, il vedere l'oboe, per esempio, che inizia Save Me, questo pezzo dei Queen. Certo. Dice, non pensavo che l'oboe, a parte, non so, l'adagio di Albinoni, potesse fare anche un pezzo di Queen. Esattamente. Fondamentale. Ursula, il progetto ha dei fini particolari, però. Allora, quando lavoriamo con Fabrizio, fare queste grandi cose senza un contenuto, tutti e due ci guardiamo, non sarebbe la stessa cosa. Quindi finora nei nostri progetti c'è sempre stato un fine benefico, un fine benefico che naturalmente il progetto costa soldi, però ci colleghiamo a queste associazioni di beneficenza e troviamo un entusiasmo di persone che danno la vita per gli altri, che magari soffrono, che magari hanno degli altri pensieri per la testa, però quando gli presenti il progetto, sì dai, facciamo, e dopo tutto quello che viene in più ce lo teniamo noi. Ed è anche questa volta a Vicenza facciamo, è organizzato, oltre che da me, dall'Associazione Volontari Regionali. Mi interessa molto specificare chi sono i volontari, Associazione Volontari. Qua a Padova sappiamo chi sono, perché chiunque vada in ospedale sa che ci sono delle signore e dei signori col camice bianco e col letto celeste, dove vai disperato a chiedere cosa faccio, dove vado, quando ci metto, mi aiuti, mi porti, eccetera. E l'AVO regionale sta mettendo questi volontari anche nell'ospedale di Vicenza. Quindi la presidentessa dell'AVO regionale, un vulcano di donna, la Marilena Bertante, sta selezionando migliaia di volontari, perché non è facile, ci fanno dei corsi di formazione continui per incominciare, grazie al primo reparto, che è il reparto di nefrologia gestito dal professor Ronco, a far operare i volontari anche a Vicenza. Quindi questa è la festa dell'inaugurazione del volontariato vicentino gestito dall'AVO regionale. È una festa che, più che raccolte fondi, deve raccogliere persone che abbiano voglia di fare il volontariato, di farsi corsi, di stare in ospedale una mattina alla settimana, come si fa qua a Padova, e di trovare persone che hanno voglia di gestire questa AVO. Quindi AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, anche a Vicenza dal 1° di novembre, forse no, già c'è un reparto con dei volontari. E quindi a noi dà molta soddisfazione lavorare con queste persone, perché ci danno il cuore, proprio più cuore di così non si può, veramente, scusate. E la musica è il collante di tutto quanto. È il collante, poi vedere l'entusiasmo con cui vengono i volontari, poi vedi con le ceste dove dopo raccoglieranno, battono le mani e si fanno, cioè, è veramente bello vederlo. Quindi i nostri concerti, difficilissimi da organizzare, difficilissimi da reperire fondi, una cosa... Oggi come oggi, momenti di crisi, potete immaginare cosa vuol dire. Costano, però ci danno tanta soddisfazione. Certamente. Se poi il risultato è quello che fate, cioè, voglio dire, ne vale assolutamente la pena. Sì, poi io con Fabrizio siamo sempre d'accordo. Noi anche al Verdi, che ha pochi posti, perché purtroppo noi a Padova siamo molto sfortunati, perché il Verdi ha pochi posti e anche molti brutti, ci teniamo a tenere il biglietto basso, non vogliamo aumentare il prezzo del biglietto, per piuttosto cerchiamo uno sponsor in più, cerchiamo, supplichiamo, giriamo, piangiamo davanti a tutti quanti, ma il biglietto deve essere accessibile a tutti quanti. E allora ripeto, faccio questa propaganda per Vicenza, ci vogliono delle nozioni. Teatro Comunale di Vicenza, parentesi, beati i vicentini che hanno questo teatro, è bellissimo. Veramente, c'è un auditorium con mille posti dove tutti vedono, tutti sentono uguale. Ore 9, domenica 24 ottobre. Di domenica non avete niente da fare. Di domenica sera, sì, non c'è più l'appuntamento del sabato, del venerdì, quindi si viene alle 9, si sente questa musica straordinaria. Per la vendita dei biglietti abbiamo fatto una prevendita facilitata, cioè senza il diritto di prevendita, da Zin qua a Padova, strumenti musicali. Una prevendita al teatro, ma degli orari un po' difficili. C'è la prevendita via internet, www.tcvi Torino Catania Vicenza Imola.it. c'è la biglietteria online dove si possono acquistare i biglietti. Ma io credo che comunque anche collegandosi sul sito del teatro c'è qualcosa. Sì, sì, è proprio sul sito del teatro, è il Teatro Comunale di Vicenza. Oppure venite su Facebook, c'è l'evento Queen, aggiungetevi all'evento Queen e là ci sono tutte le informazioni. Certamente. Una domanda specifica sempre al maestro, che il Gestà, cioè Stefania Miotto e Vittorio Matteucci, l'inserimento, i brani, come li avete scelti assieme? È stata una scelta condivisa fra voi? La scelta è stata un po' imposta, nel senso che il repertorio era i Queen, quindi io ho proposto loro di cantare quei brani, ovviamente condividendo con loro la fattibilità. Motivo per cui alcuni brani non sono cantati, perché magari non sono nell'estensione vocale di uno o dell'altro. Certo, quindi comunque sia viene sempre gestito. Io ho cercato di non arrangiare, orchestrare i brani stravolgendoli rispetto all'originale, sia da un punto di vista armonico, sia da un punto di vista di tonalità e quant'altro, anche perché il pubblico ci deve cantare su questi pezzi, quindi fondamentalmente deve essere in un range che è possibile per il pubblico. Ma a parte questo, che è un dettaglio, più una chicca diciamo, la scelta dei brani è stata comunque poi condivisa con Vittorio, con Stefania ovviamente, nel momento in cui hanno accettato di far parte di questo progetto. Stefania, confermi al 100%? Confermo, anzi io vi dico, siccome sento che la batteria del mio sei tu, cellulare sì, sì, è il mio, no, è il come si chiama, il cordless, quindi se non mi sentite più è perché il cordless mi ha abbandonata. Ti chiamo, quindi ti chiamo dall'altra parte. Esatto, aspetta, ecco. Stai, chiudi che ti chiamo dall'altra parte. Ah, va bene, ok, va bene. Benissimo, ritornando al discorso della colorazione musicale, mi interessa. Tu hai parlato prima di quel pezzo famoso Under Pressure, fatto anche da Bowie. Altri pezzi dei Queen che hai avuto, non delle difficoltà, per delle particolarità che hai superato con una certa... Forse il più difficile in assoluto è It's a Kind of Magic. Esattamente, questo... come mai? Perché It's a Kind of Magic è difficile non sentirlo fatto da Freddie Mercury, intanto, prima cosa. Poi è un pezzo... loro avevano questa caratteristica che negli anni in cui sono esistiti, in quanto Queen con Freddie, hanno spaziato tantissimo come generi musicali. Quindi, per esempio, Radio Gaga piuttosto che Somebody to Love, sì, sono molto distanti come brani, come generi, come stili, come approcci musicali. It's a Kind of Magic è molto complicato perché c'è il rischio che non renda, cioè che non stia sul pezzo fondamentalmente, perché manca un po' l'essere istrione di Freddie Mercury, insomma, a parte gli snaps fatti dagli orchestrali all'inizio e fine pezzo, ma insomma, per quelli che ignorano, gli snap cosa sono? Gli snaps sono questi, non so se si sentono. Ecco, perfetto, adesso abbiamo chiarito cosa erano gli snaps. Gli snaps, no, alla fine ci sono, infatti per questo dicevo che è comunque qualcosa da vedere oltre che da ascoltare, perché a parte l'imponenza dell'orchestra, i vocalist della band, i solisti, però è bello vederli lavorare nella serata, cioè vederli suonare, vederli eseguire i pezzi, vedere questi strumenti che fanno delle cose che sono appunto un po' inusuali rispetto, certo, a quello, certo, che... Sì, e anche vedere tutti gli strumentisti che quando cantiamo noi si voltano e mollano lo strumento e cominciano a battere le mani a tempo, che è una cosa che non si è abituati a vedere, queste persone che di solito sono un po' imbacchettate, no? Giustamente, molto da soul, molto da black. Sì. Assolutamente, sì, sì, sì. Stefania, sei sempre lì, vero? Sono sempre qui. Ah, okay. Bene, bene, bene. Anche da, io ho visto qua le fotografie, anche una bella visione... proprio sì. Meravigliosa. Sì, sì, ma in realtà il progetto appunto di fare questo repertorio piuttosto che anche altri repertori in versione pop rock sinfonica nasce proprio dall'idea di portare la maestosità dell'orchestra sinfonica in un territorio che non è tipico dell'orchestra sinfonica, nel nostro posto, diciamo, nell'Italia in cui viviamo. Giustamente Vittorio prima diceva la gente poi si adatta, e se è un progetto che funziona lo apprezzano. Sicuramente funziona. Deve funzionare. Sì, Ha funzionato. Questo è già testato. È una replica. Sì, è una replica che... col cuore, però. Certo, come certo. Se fosse sempre la prima, anzi, come diceva Vittorio, come se fosse l'ultima. No, ma mi sembra un po' negativo, come, scusate, dico la mia, io avrei fermato Vittorio, ma che Ubi Maior, se non lo fermo, ma per me è come fosse sempre la prima, non come fosse sempre l'ultima, per carità. Esatto. Io vedo sempre il bicchiere pieno, quindi esatto. Per me la vedo così, penso che l'emozione sia la stessa, il risultato sia lo stesso. Sì, sì. Poi tu, Ursula, sei sempre un po' in mezzo a questi concerti, no? Sei un po' dappertutto, quindi per te è una cosa continua avere questa continua emozione. Ma qualsiasi cosa, veramente, io dal più piccolo concerto alle registrazioni che facciamo, io mi emoziono sempre, sono un po' scema, però certe volte mi dico, ma come faccio a emozionarmi così tanto? Allora provo a coinvolgere altre persone, ma tu se senti questo, ma a te piace, ma se... però se non c'è questo cuore qua, chi me lo fa fare? Certo. Tu hai parlato della presentazione, a me interessa sapere ancora... devi allargare il discorso della presentazione. La presentazione di un concerto domenica, che farò domenica, sperando sempre di non essere sempre questo maccione di voce, che di avere un po' più, di essere un po' più brillante di questa sera, è particolare. Io devo essere sincera, non sono Milly Carlucci, non sono una presentatrice, però anche qua vedo che se fai una cosa col cuore, sì, parlo alla parlantina, non mi ferma nessuno, perché, però quando comunichi alla gente qualcosa, io non è che leggo sponsor, la banca, l'assicurazione, così, se no nessuno ascolta. No. Ho avuto un grande maestro, Moreno Morello, una volta è venuto a presentare un nostro concerto. È stato strepitoso, è stata una delle cose più belle. Io ho detto questo adesso, noi non suoniamo più, ha fatto lui il concerto. Lui doveva solo presentare gli sponsor. La sera mezzanotte, il giorno prima, mi ha telefonato pronto con la voce che lui e mi ha detto, mi dici cosa fanno gli sponsor? Oh, Moreno, io starei anche dormendo, però ti potrei dire questo fa gomme, quell'altro fa denti, quello è una chirurgia plastica. Va bene, grazie, ci vediamo domani. Vabbè, io ho detto, chissà cosa gli serve. 1:10 di storia, come l'uomo comune non poteva uscire da quel teatro senza passare da quello che gli stava la macchina, che poi rompeva la macchina, si rompeva un braccio, andava dal chirurgo plastico e poi beh, è stata una cosa, la gente l'ha applaudita, ha avuto standing ovation. Io nel mio piccolo cerco di personalizzare cioè tutto quello che presento e vedo che la gente si ricorda, sono molto contenti anche gli sponsor, tornano, abbiamo i nostri fedeli sponsor, quindi la presentazione di un concerto, naturalmente poi si parla di beneficenza, è sempre molto importante, quindi progetti che noi abbiamo sono tanti nella nostra testa, poi metti insieme me e lui, siamo dei visionari, però a breve, dopo oltre qui, noi abbiamo il 7 dicembre, diciamo the best of, al Teatro Verdi, dove abbiamo delle sorprese, qua la nostra mascotte sarà una grossa sorpresa, tutto, abbiamo un po' di ABBA, un po' di Queen, un po' quella bella canzone che hai nominato tu prima, quel music di John Miles, sarà un concerto molto bello, anche questo con un fine benefico importantissimo che diremo. Ricordalo ancora, che giorno, data? Il 7 dicembre al Teatro Verdi. Okay. E poi, vero Fabrizio? E poi 15 aprile abbiamo questo grande, grandissimo tributo ai Pink Floyd. Dico grandissimo perché ci stiamo morendo dietro, lui ci sta lavorando e io anche, perché deve essere proprio grande. I Pink Floyd non puoi farli così. I Pink Floyd devi farli alla grande. Cos'ha? Cioè, quando... Sì, mentre i Queen puoi farli anche intimi, sì. Puoi far... I Pink Floyd devono spaccare proprio. Ci vuole la location giusta, ci vuole l'organico giusto, c'è la band che già sta preparando il repertorio, lo sta studiando, ce lo sta... Perché insomma, voglio dire, eseguire i Pink Floyd lì veramente è come entrare nel tempio del... Perché poi, dicevo prima, la gente viene e si aspetta molto. Certamente. Quindi... Non gli si può proporre ovviamente una sorta di zuppa riscaldata. Beh, che... lui è un grande fan dei Pink Floyd. Io sono un grande fan di Atom Heart Mother, che io giudico il miglior disco che hanno fatto, anche se loro hanno detto per noi non va bene, non la mia. Allora, ti racconto questo aneddoto. Dimmi. Quando è nata l'idea, cioè quando è nata l'idea di fare i Pink Floyd, è nata parlando con il chitarrista, non il chitarrista che suonerà nei Queen, ma il chitarrista che ci sarà il 7 dicembre, che è Andrea Urpilo Guarnieri. Lui è partito dicendo, potremmo fare il tributo ai Pink Floyd? Ho detto, sì, è una cosa che è bella, cioè, pensiamoci, lavoriamoci. E ha tirato giù praticamente tutti i titoli dei Pink Floyd, perché ovviamente anche lui è un fanatico, e praticamente erano tipo un tomo di titoli. Sì, cioè 40-50 pagine di titoli, al che abbiamo dovuto scremare perché... Certo. che possiamo battere il record di esecuzione live, però insomma, quindi sappiamo già che scontenteremo qualcuno su certo, questo certo. Non c'è. Però abbiamo scelto quelli che appunto sono un po' i più noti e un po' anche i più adatti. Sono anche pezzi lunghi, generalmente i Pink Floyd non sono quattro. Sono delle suite vere e proprie musicali. Infatti la bellezza dei Pink Floyd è proprio il fatto che è musica da gustare in ascolto. Certo, cioè ti siedi e ascolti. Certo. Apro e chiudo la parentesi, io sono innamoratissimo di If. Quello secondo me è un pezzo meraviglioso, pochi accordi, non sembrano pochi accordi, perché, però è un pezzo meraviglioso, incastonato giusto nel momento giusto, un album epocale anche dalla copertina, ragazzi. No, comunque per i Pink Floyd, come diceva giustamente Urso, ci stiamo lavorando da mesi, perché è un progetto grandioso sia scenograficamente parlando, sia proprio come luogo in cui verranno fatti, e anche la richiesta del pubblico è molto... c'è un sacco di gente che vuole vedere i Pink Infatti Floyd. La facciamo al Gran Teatro, che è diciamo il posto adatto. La location giusta. Sì, la location. Non puoi fare un Pink Floyd al Verdi. Ursula mi vieni a trovare prima, vero? Sì. Ah, certo. Come... Aspetta, intanto devo trovare tutti gli sponsor. Vabbè. Perché qua si parla, musica, vogliamoci bene, facciamo la musica all'orchestra. Intanto devo lavorare su questo, che oggi come oggi... Però vi aspettiamo qui. Ma come, certo, come ma certo. Sera. Ursula, allora, ribadisci siamo. Cosa ci sarà domenica. Allora, domenica 24 ottobre nella splendida cornice del Teatro Comunale di Vicenza, Queen, versione sinfonica, rock sinfonica dei Queen, 70 persone sul palco, 40 maestri, da parte i tecnici, perché poi per amplificare, adesso parentesi tecnica, amplificare 60 persone ci vogliono 10 tecnici, perché ogni strumento ha una sua amplificazione, non abbiamo panoramici, non abbiamo rientri e così tutto quanto è personalizzato. Potete immaginare cosa vuol dire. Un lavoro mastodontico. Dalle voci ai violini, al basso, alla tuba, a tutto quello che ha detto lui prima. Ecco, quindi è una cosa enorme. E quindi ci sono tutte queste persone sul palco, tutti col cuore canteremo i Queen, canteremo perché canto anche io sperando sempre di essere messa meglio, e con le star, le nostre star che arrivano, e arriva Yes I'm a Great Pretender, quando fa così noi svegliamo, perché entra Vittorio Matteucci e canta Yes I'm a Great Pretender, cioè è una cosa troppo bella. Poi arriva Stefania con i suoi vestitoni che ci fa Barcellona, e dopo la chiedono sempre il bis, e noi siamo anche un po' stufi, perché facciamo Barcellona che non è la fine del concerto, bis però, bis. Però è la fine di questa intervista, però la rimettiamo su, va bene. E quindi venite dai Queen, ecco. venite guardate l'evento su Facebook, guardate la pubblicità, andate sul sito del teatro, vi aspettiamo. Stefania, grazie di aver partecipato anche a te. Grazie, ciao Stefi, e ci vediamo presto. Ciao a tutti, ciao Fabri, ciao Benedetto, ciao domenica. Ciao Agostino, e ciao a tutti coloro che ci hanno ascoltato, a tutti i vostri ascoltatori, e tutti adesso vi vogliamo il 24 ottobre al Teatro Vicenza, guai a chi manca. E poi noi di Blu Radio Veneto ti vogliamo qui. Certo, ecco. Quella è una promessa. Ciao Stefania, ti voglio bene. Grazie. Anch'io, un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, ringraziamo gli nostri ospiti, Maurizio. Ringraziamo la Benedetta. Grazie a te. Grazie di essere intervenuta all'ultimo momento, insomma. Abbiamo Fabrizio. Grazie a voi. E la Ursula. Grazie di avermi presa così. Questa situazione veramente di difficoltà mia, grazie al pubblico che ci ha ascoltato, vi aspettiamo a cantare con noi. Allora, io vi saluto, vi do una buona serata, vi lascio in compagnia di Alberto Prisco, che proseguirà la serata con Rock Wave e la sua classifica di musica rock. Vi do l'appuntamento alla settimana prossima, cioè a giovedì prossimo. C'ho un'altra sorpresa. Avremo modo, io e Maurizio, di intervistare il figlio di Pierangelo Bertoli. Esattamente. Per me è un grande onore, perché è un personaggio, il padre, che è stato gigantesco, enorme. Vabbè, insomma, comunque ne parleremo giovedì prossimo, sempre qui a Blu Radio Veneto, che continua con Alberto Prisco. Ci salutiamo con Stefania Miotto e Vittorio Matteucci, che cantano appunto quel pezzo che loro sanno, e si chiama Barcellona. Ciao. Ciao, grazie. Thank you. have this perfect dream. Un sueño me envolvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I want all the world to see. Un instinto me guiaba. A miracle sensation, my guided inspiration. Now I dream with slowly coming true. The wind is a gentle breeze. Sono le 22 e 31 minuti.